Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera partiamo da un libro autobiografico, da un libro di formazione che ruota intorno a una domanda: come si cresce, o meglio, come si cresceva a Milano? Questa è la domanda che si pone un manager culturale, saggista, traduttore, che è l'autore di questo libro, si chiama Alberto Rollo e ha scritto Un'educazione milanese, il romanzo di una città e di una generazione, pubblicato da Manni, 318 pagine, 16 euro. Quella di Rollo, classe 1951, è l'evoluzione di un giovane milanese, appunto molto normale, appartiene a una famiglia comunista, il padre è un piccolissimo imprenditore, poco più che un artigiano, lui fa i suoi studi e la sua normale esperienza a sinistra nel movimento studentesco, cresce con una forte passione politica, un deciso orientamento ideologico, si forma all'interno di un gruppo di amici dominato da quello che diventerà un architetto, Marco, e non mancheranno naturalmente in questi anni i traumi, anche i drammi all'ombra di una città che è l'altra grande protagonista del libro, Milano, appunto. Una Milano fortemente stratificata nelle appartenenze di classe, ricca di molti fermenti culturali, intellettuali, capace di forgiare un'intera generazione prima di subire una trasformazione radicale, e perciò educazione milanese. Dai tratti quindi unici e immutabili, un'educazione che ha formato una generazione che oggi spesso non riconosce più la città della propria giovinezza e gli ideali ai quali essa li aveva indirizzata. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Alberto Rollo. Buonasera. Alberto Rollo, partiamo dal titolo del suo libro, Un'educazione milanese. Milanese vuol dire più a Milano o di Milano? Mi sembra più di Milano. Lei fa capire che c'è un imprinting milanese nell'educazione che si ha in questa città, anzi lei parla di state of mind. Esatto, sì, credo che l'accezione più pertinente sia proprio quella di Milano, quello che Milano con la sua molto stratificata identità ha passato alle generazioni che ho conosciuto io e come le ha strutturate secondo i diversi livelli di classe che io ho conosciuto molto più di quanto non si conoscano adesso, dove la percezione del sociale è più legata alla forbice ricchezza-povertà piuttosto che di classe. E invece allora era molto chiaro l'identità di classe, era molto chiaro l'identità di classe milanese, sia borghese che proletaria. Infatti lei scrive: ho continuato a ritenere che l'avventura di essere milanese abbia portato con sé prima i benefici di una identità di classe e poi la sua decostruzione, senza che questo processo decostruttivo provocasse un salto o tantomeno un tradimento di classe. Che cosa resta di questa prima fase allora dell'educazione milanese, dell'avventura di essere milanese? Resta quella che con grande semplicità potremmo chiamare memoria attiva. Non la memoria passiva, la memoria attiva, nel senso che tutto ciò che è diventato formazione, i tedeschi direbbero Bildung e noi possiamo tradurre anche educazione, è passata dentro nel tessuto connettivo vivo della città che secondo me tuttora sussiste. Ecco, io però questa cosa l'ho fatta ovviamente non come un sociologo, non mi interessava e neanche come un amministratore della città, ho cercato di raccontarlo e mi sono trovato quasi davvero senza volerlo a registrare la sinusoide di una generazione, della mia generazione, una generazione che si è trovata improvvisamente ad essere giovane, a coprire questo aggettivo con una responsabilità alla quale forse non era preparata, ma che ha cercato di vivere con il massimo dell'intensità. E questa dinamica della giovinezza e delle speranze, della tensione, degli occhi diversi, come li chiamo io lì nel libro, è veramente molto importante e narrativamente è testimoniata, ahimè, da una morte di un amico carissimo, di quelli che in gioventù sono quelli con cui si divide la prospettiva del futuro: cosa faremo, cosa cambieremo, quanto faremo, dove metteremo le nostre vite. Ecco, quando lui muore è come se si spezzasse un po' quella tensione tutta sparata verso il futuro, ed è come se purtroppo la sua morte coincide, siamo nel 75, coincide anche pressappoco con lo smorire delle tensioni che avevano tenuto alto tra il 67 e il 74, quella della mia generazione. Di quegli anni, di quella Milano che la educava, lei dà una definizione strana a un certo punto. Dice: Milano era un campo di battaglia che ci educava a non giocare più. Che cosa intende? No, lì quella frase appartiene a un momento in cui la lotta, come si chiamava allora, politica, si colora di tinte pesanti. Viene dopo Piazza Fontana, viene quando era inevitabile fare i conti con la morte, nel senso che, e non sto parlando di terrorismo, sto parlando di prima del terrorismo, o meglio del terrorismo, quello delle Brigate Rosse, intendevo. E quel terrorismo, che era terrorismo nero, ci ha cominciato a educare, a percepire la possibilità di morire come una delle accezioni della giovinezza. È terribile, ma l'essere giovani in tutte le età, non soltanto in quella che ho conosciuto io, paradossalmente colloquia tantissimo con uno strano, profondo, intenso e contraddittorio desiderio di morire, quasi che non si potesse andare avanti, quasi che non si possa andare avanti oltre il confine della giovinezza. È un tema molto, molto complesso, ma che mi ha sempre molto affascinato. E lì l'ho sentito, sentivo che mentre raccontavo di queste cose, che raccontavo di me, dei miei amici, emergeva questa cosa qua. Chi se ne frega, cioè eravamo tutto futuro, ma al contempo non ci riguardava che il futuro fosse il nostro personale. E questo è un altro degli grandi insegnamenti che vengono da allora. Viene laddove ora io sento anche giovani meravigliosi, ma che sono comunque inseriti in una dimensione di futuro che ha a che fare con il futuro della carriera, il futuro della professione, il futuro dell'imporsi, cosa che credo non ci fosse allora, o almeno non era così evidente. Però a un certo punto anche voi cominciate a sentire la dialettica, diciamo, del rapporto con la borghesia. Lei scrive: entravo in una cultura per definizione borghese che faceva di me un candidato di una nuova, ancora ignota, piccola borghesia saccente, caotica. È vero, è verissimo, perché un altro degli aspetti molto percepibili di quegli anni lì, quelli che coincidono con l'educazione, la seconda educazione milanese, c'è un'educazione milanese infantile e di classe, c'è una seconda educazione in cui le classi invece si mescolano, ed è un grande, molti già hanno provato a scriverci su questa cosa, ed è perché è un tema importantissimo, il momento in cui si crede per un atto, e solo da forse in un'area della nostra società, che era possibile la miscidazione, quale che fosse l'origine di classe, era possibile mescolarsi, e mescolarsi era inevitabile che portasse alla perdita di qualcuno, di qualcosa della prima identità. Allora io entravo in un affascinante mondo borghese, che era quello poi delle rivolte sessantottine, che erano gli arrabbiati erano più legati alla classe borghese che ai proletari. I proletari combattevano per migliorare le condizioni sociali, gli arrabbiati combattevano in nome di una rabbia, di uno stato intollerabile interiore, ecco. e quindi noi conoscevamo, io nella fattispecie come soggetto di questa narrazione, ho cominciato a conoscere quest'altro mondo e a sentirne anche la magia, la fascinazione, la complessità, che diventava anche la complessità di una formazione filosofica, letteraria. Cominciavo a conoscere tutto quel mondo che prima io non conoscevo e che poi è diventato il mio mondo. Poi questo me lo scolarsi però diventa omologazione. Lei scrive: sui treni e sul metrò c'era un silenzio sociale non pacificato in attesa di una nuova uniformità e c'era un'urgenza di una nuova rassicurante omologazione. Quindi c'è stato un salto a un certo punto a Milano. Decisamente, ed è quello di cui io volontariamente non parlo, nel senso che con educazione milanese intendo che una città può insegnare qualcosa a un ragazzino, a un bambino, a un giovane, fin quando il ragazzino e poi il giovane è in grado di assorbire. Dopo il giovane non è più giovane, quindi non ha niente da essere educato, deve fare lui, deve portare lui la propria identità dentro la città. Quando io entro nell'età più matura, mi trovo davanti una città che è la città degli anni Ottanta, che faccio fatica a riconoscere, ho fatto fatica a riconoscere, che è la Milano dell'omologazione o delle tensioni a una smemorante joie de vivre molto di paillette, ecco, molto esteriore, molto triste, molto triste. E citando Giuseppe De Finetti, lei dà una non definizione di Milano. Dice che Milano è una città che acquisisce somma senza diventare mai una città madre. Milano non è mamma. È vero, sempre sentito anch'io questa cosa di Milano, come anche perché, per esempio, a livello dialettale Milano è maschile. E non è poco questa cosa linguistica, questa radice linguistica. Milano è una città che non vuole essere madre, quindi non vuole essere protettiva, detto in altri termini. E non a caso è la città degli imprenditori, la città di quelli che si danno da fare, la città che continua a trasformarsi. E quando De Finetti parlava di questa città padre, intendeva anche l'incapacità di modellare emotivamente e affettivamente il territorio urbano. Si sommavano episodi architettonici, ad esempio, e non facevano parte di un piano. Se si pensa anche alla Milano attuale, che di oggi, che è a suo modo fascinosa perché è cambiata, nel giro di 10 anni abbiamo un nuovo skyline, abbiamo nuovi quartieri con nuove forme in cui è singolare come si può star bene dentro le nuove forme, malgrado tutte le polemiche su gli architetti, l'archistar, via dicendo. Ma al di là di queste cose qua, quando una città cambia, come in questo caso Milano, sommando episodi diversi, forme diverse, diventa non soltanto teatro, ma spirito di chi la abita. Allora noi non sapremo mai, o meglio, per ora non sappiamo che cosa questa Milano sta insegnando a chi si affaccia dentro a Milano come un nuovo popolo, che sostanzialmente io direi identificherei con i nuovi immigrati. Grazie ad Alberto Rollo, autore di Un'educazione milanese. Buona serata. Grazie a voi. E con questo ci interrompiamo per un momento e ci sentiamo fra pochi istanti. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba, rimaniamo a Milano, che si è salvata nelle scorse settimane dall'ondata di gelo che ha colpito l'Italia, perché a Milano, sapete, non fa freddo, almeno questo è il titolo di un libro che ebbe una grande fortuna negli anni 50, ne è autore uno scrittore napoletano, molto popolare ai suoi tempi e forse per questo un po' troppo sottovalutato dalla critica, Giuseppe Marotta, che morì nella sua città nel 1963. Questo libro, A Milano non fa freddo, viene riproposto da Luca Daino per Metropolis, edizioni Unicopoli, 200 pagine, 18 euro. Il volume ebbe anch'esso un grandissimo successo e comprende 22 racconti che tracciano le peripezie tra il 1927 e il 1948 di un napoletano che è l'alter ego dell'autore, il quale a Milano cerca fortuna nel campo dell'editoria. Il periodo considerato va dal 1949 fino alla vigilia del ritorno di Marotta a Napoli, e questo è un grande atto di amore di Marotta verso Milano, la città adottiva, segno di quell'accoglienza che la città riservava in quegli anni e non soltanto ai tanti immigrati meridionali. L'autore introduce il volume nelle più gelide giornate milanesi, il cui rigore può essere affrontato per esempio ascoltando le campane di una centralissima chiesa, quella di San Fedele. Visitate Piazza San Fedele di prima sera, scrive l'autore, e rimanete per 5 minuti in ascolto mentre le campane suonano. L'immensa città, senza che nessuno lo sappia, si rannicchia presso quelle aeree voci. Vi prenderà in grembo, din dan, a Milano non fa più freddo. Una Milano di qualche anno precedente, siamo negli anni 40, troviamo nel libro di uno dei massimi scrittori della città, Carlo Emilio Gadda, che ci ha lasciato su Milano tante pagine indimenticabili. E qui Gadda visse fino agli anni 40, Milano restò sempre legatissimo e il rapporto con la sua città viene presentato nel libro di Lucia Lomarco, che è una studiosa di Gadda, intitolato La svergolata Milano di Carlo Emilio Gadda, è pubblicato da Giulio Perrone, 122 pagine. 12 euro. Il libro non è costruito come un itinerario geografico per Milano, ma piuttosto come una giornata scandita nei vari momenti, il mattino, mezzogiorno, il pranzo, il pomeriggio e la sera, che colgono nei vari momenti la città. E naturalmente ogni capitolo viene illustrato con le pagine di Gadda. Al mattino, per esempio, c'è il riferimento alla celebre descrizione del Marcello comunale, colto come uno dei simboli dell'economia cittadina. A mezzogiorno troviamo l'altrettanto celebre descrizione di come si fa il risotto patrio, come lo chiama nel libro, che per Gadda assume un autentico valore identitario, come spiegano queste righe. Alla fine degli anni 50, quando Gadda scrive il testo del risotto alla milanese, Milano è già una metropoli consolidata, sinonimo di occasioni, capace di trasformare la casualità degli incontri in una comunità grande, prospera e fertile. Anche nel termine patrio, contenuto nel titolo del testo ricetta, l'autore sembra suggerire il ruolo dominante di Milano. Etimologicamente legato al significato di territorio paterno, l'aggettivo non vuole tanto far riferimento alla storia personale di Gadda, quanto alla storia di un'intera civiltà. Come l'autore precisa in altra occasione, lo spirito lombardo ha svolto e svolgerà una sua funzione importante nella civiltà nostra. La connotazione di un risotto patrio, tuttavia, dietro questo primo aspetto celebrativo della città e del suo ruolo, manifesta un senso contrario, parodistico e satireggiante. Il testo non manca infatti di iperboli e di ironia. Gadda deride e ridicolizza la veste sacramentale di cui si ammanta la ricetta e, con l'arguzia della battuta di spirito, rende macchiettistica l'intransigenza normativa messa in atto per la cottura del risotto. Il tono precettivo del testo, unito alla minuziosa descrizione delle azioni, dei gesti, dei prodotti del sacro risotto alla milanese, si tingono di farsa e mettono in evidenza l'eccessiva severità, l'attitudine paternalistica e la comica rigidezza nei costumi della società milanese. E di Gadda, Adelphi, che lo sta ripubblicando, ripropone uno dei testi più importanti, Eros e Priapo, nella versione originale. Questa edizione è curata da Paola Italia e Giorgio Pinotti, 452 pagine, 24 euro. Questo testo fu scritto tra il 1944 e il 1945, fu respinto anche da molte testate, pubblicato solo nel 1967 in una versione molto edulcorata. Adesso, grazie alla riscoperta del manoscritto originale, possiamo leggere tutta la violenza che in questo testo Gadda rivolge contro Mussolini, il Priapo Maccherone Maramaldo, così lo chiama. Ma una violenza rivolta anche a chi diede retta a Mussolini, cioè alla società italiana. Infatti Gad scrive questo libro anche perché è convinto, lo cito, della necessità di un atto di coscienza con che nu dobbiamo riscattarci, che preluda alla resurrezione, su una resurrezione tentabile da così paventosa macerie. E dicevo di Mussolini, Gadda dà descrizioni veramente incredibili, lo definisce il mascelluto, tronfio da esplodere, il quale a quelle prime grida della ragazzaglia era già briaco d'una sua pazza libidine, simile ad alcolomane cui basta annasare il bicchiere per sentirsi smarrito in un piscio Eliseo, prosciolto da ogni ritegno. Un altro grandissimo scrittore milanese, questo a noi più vicino, possiamo riscoprire nel libro che raccoglie alcune sue conversazioni sullo scrivere. Questo infatti è il sottotitolo del libro di Giuseppe Pontiggia, che ci ha lasciato nel 2003, pubblicato da Belleville, 312 pagine, 21 euro. Qui troviamo testi e parole, perché il libro comprende anche un CD che appunto trascrive queste conversazioni. Sono 25 conversazioni che il grande scrittore tenne per un programma radiofonico Dentro la sera tra il maggio e il luglio del 1994. Qui Pontiggia quindi si rivolge a un pubblico molto ampio, non specializzato, con queste chiacchierate che poi in parte lo stesso scrittore avrebbe adattato a testo scritto. E sentiamo dalla prima conversazione lo stesso Pontiggia che racconta dei suoi inconsueti esordi letterari. La mia prima opera è stata La morte in banca, rifletteva la mia esperienza autobiografica. Io sono stato costretto all'età di 17 anni, avevo abbreviato gli studi del liceo classico, a entrare in banca per necessità economiche, essendo morto mio padre. E il contatto con la banca è stato un contatto traumatico, cioè il contatto con un mondo di adulti che io consideravo maturi, mi ha indotto a un ripensamento di me stesso, della mia condizione, anche delle mie ambizioni, per esempio, di scrivere. Ricordo come viatico, per esempio, che avevo ricevuto da due colleghi più anziani che mi vedevano studiare in banca, una loro frase che poteva entrare in una delle vite degli uomini non illustri, cioè: tu non farai mai niente, tu oramai sei un fallito come noi, è inutile che studi, qui non farai mai niente. A ripensarci a distanza di anni è una frase così, che abbastanza impressionante, che io avrei difficoltà oggi a immaginare in un mio coetaneo o anche in una persona inferiore in molti anni a me, ma che comunque era stata pronunciata e mi aveva profondamente amareggiato, oltre che disorientato. Il frutto di questa esperienza traumatica della banca era stato un romanzo breve, intitolato La morte in banca, che io avevo portato a Vittorini. E proprio Gadda, con l'incendio di via Keplero, e Pontiggia, con le vite di uomini non illustri, che egli stesso ha citato poco fa, sono assunti a modello di una letteratura italiana di cui ricerca le tracce e l'eredità Giorgio Ficarra, scrittore e saggista, di cui esce Lettere non italiane, considerazioni su una letteratura interrotta, pubblicato da Bompiani, 338 pagine, 13 euro. Che ne è della letteratura italiana? Oggi, secondo l'autore, essa appare emarginata rispetto alle letterature europee ed espressione di una lingua altra, come egli stesso dice, più simile alla traduzione da un succinto inglese che a quella lingua altrettanto perfetta quanto immensa di cui parlava Leopardi quasi due secoli fa. Guardando più ai B-movies americani che al romanzo italiano moderno, grande o piccolo, Svevo, 48 Gambini, Tozzi o Pratolini, questi scrittori hanno fatto saltare il banco. In buona fede, indubbiamente, hanno dato vita a una B-literature del tutto sciolta, sola, in qualche modo vincente. Questo dice l'autore. Insomma, l'autore denuncia questo rischio di omologazione, contraddetto peraltro dalle testimonianze ricordate dal libro di alcuni grandi autori contemporanei, per esempio La Capria e Azzeni, che si pongono, scrive sempre Ficarra, come lampante continuità con i grandissimi e ardui padri novecenteschi, Gadda, Landolfi, Montale, Zanzotto, la loro forza di ultimi dopo gli ultimi, in un certo senso. Ma il quadro generale resta preoccupante. A differenza di pochi libri belli come quelli di Arbasino, che si pone in continuità con Gadda, Ficarra scrive che certi libri sono brutti non soltanto perché hanno rinunciato alla continuità con la lingua letteraria italiana, ma perché rispetto all'attuale pena del mondo scelgono un falsetto estetizzante, disumano, pigramente ricorsivo. E il libro è ricco di riferimenti ad autori e titoli che cercano di contrastare questa crisi della cultura, oltre che della letteratura italiana, una cultura, scrive Ficarra, che oggi non ha più a che fare con un progetto di definizione di sé né con una memoria di sé. E a questo punto il confettino. Per recuperare il gusto della grande letteratura per ragazzi segnalo una nuova edizione di Battello a vapore di un capolavoro di Emilio Salgari, Misteri della giungla nera, illustrato da Rita Petruccioli, 512 pagine, 16 euro, e introdotto da Bianca Pizzorno, che rievoca la straordinaria scoperta di Salgari da parte della ragazzina. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Roberta Frisani in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.